la notte oscura e desolata, deserta la città, o mia chitarra appassionata, chi mai t'ascolterà? Soltanto l'ombra dell'amore col volto del dolore stanotte qui con me. E tu non sai perché, chitarra mia, che nostalgia nel cuore. Suona chitarra tu stasera, il cuore mio non ha parole, e soffre assai di più perché non mi sa dire ciò che vuole. Canta per me solamente, ma più dolcemente, quel tango d'amor. Suona chitarra tu, da tempo il cuore mio non sogna più. C'è una finestra illuminata, qualcuno sta a sentir. Sarà una bimba innamorata che non potrà dormire. Non disturbare la piccina, sospirale in sordina un canto di passione. Di sogni e di illusione ed incatena quel cuore in pena a me. Suona chitarra tu stasera, il cuore mio non ha parole, o soffre assai di più perché non mi sa dire ciò che vuole. Canta per me solamente, ma più dolcemente, quel tango d'amore. Suona chitarra tu, da tempo il cuore mio non sogna più. Per me solamente, ma più dolcemente, quel tango d'amore. Suona chitarra tu, da tempo il cuore mio non suona.